Tu la sai la verità? Hai un'idea? Sì, che la sai. No, non ti voglio... Sì? Cioè, sai chi è la talpa? Lo sanno un po' tutti, dai, io penso che lo sanno un po' tutti. In effetti, dai, fate una bella figura da cioccolatino, come si suol dire dalle mie parti, però ormai è andata, la prendiamo con filosofia. Senti, ma ti credo che qualche giocatore minimo abbia qualche problemino di corsa. Il limite di velocità non corriamo il rischio di prenderlo. No. Tutti convocati di Carlo Genta. Amici convocati, vi aspetto tutti, 800 24 00 24, Barcellona confine dei sogni, domani sorteggione in sala mensa Nyon, ci resta la Juventus, io penso anche la Lazio che questa sera deve difendere i due gol, in uno stadio vuoto peraltro, deve difendere i due gol conquistati a Stoccarda, io a una remontata dell'Inter, non ci credo mai e poi mai. Avevamo sentito i Negrita che cantavano Imparato a sognare, dicevo Barcellona confine dei sogni almeno per il Milan. Non permettere mai a nessuno di dirti che non bisogna rimpiangere niente, non permetterglielo, non farlo. Tu rimpiangi tutto il cazzo che vuoi, usa il rimpianto per qualunque cosa e come pare a te, lo puoi usare, capito? Questa è l'unica maniera per andare avanti senza subire contraccolpi. Ho sbagliato per sbagliare, non perché lo dite voi, e non mi pento proprio, sono in riserva ormai. Rimpianti non li dobbiamo avere solamente subito la voglia di ripartire, continuare quello che i ragazzi stanno facendo in campionato, perché l'obiettivo, visto che ci siamo arrivati, importante per riaccedere alla Champions League l'anno prossimo. Per riportarmi in riga servirà un miracolo. Credo che non ci sia bisogno di abbattersi più di tanto, c'è dispiacere perché era una grande occasione, più per la grande occasione, per le aspettative che erano state bravi a creare i ragazzi. Questi maledetti rimpianti. Questi maledetti rimpianti. Non ci guarderemo indietro mai. Franco Bentania, dottore di questo programma, Capitan Fabio Cantadori in regia, caro Marco che scrive un SMS, la talpa dell'Inter non ha commentato l'elezione del nuovo Papa, mi spiace, non sono uscite notizie a questo proposito. C'è chi fa il super pronostico Champions, ne parliamo dopo. A proposito, Juventini, chi non volete, 800 24 00 24. Intanto io saluto Capitan Filippo Galli. Ciao. Buongiorno a tutti. Ciao, capitano. Quante volte sei stato capitano del Milan? Qualche volta, una volta addirittura ho avuto la fortuna di farlo anche in Coppa Campioni. Sentire la musichetta con la fascia, bello, Filippo, che adesso guida settore giovanile del Milan. Nessun rimpianto, che Antonio Negrita non credo che il Milan ne abbia. Io credo invece, Filippo, che la costruzione delle grandi squadre debba passare anche attraverso queste delusioni, quasi questi dolori, o no? Ma sì, assolutamente, certo, un tifoso ne farebbe a meno, però insomma noi addetti ai lavori sappiamo che a volte nelle fasi di crescita ci sono dei momenti in cui si cade e bisogna essere bravi a risollevarsi e a continuare ad avere equilibrio, insomma. Non è semplice perché insomma probabilmente proprio quando sembrava di aver già raggiunto questa impresa, di aver compiuto l'impresa, c'è stato questa bozza d'arresto. Sicuramente poi chi è dentro nel calcio, chi conosce i reali valori, poteva anche aspettarsi, però è chiaro che fa male, insomma. Beh, fa male sì, ma poi magari da grande, tu che di giovane te ne intendi, magari da grande Niang metterà quel gol, De Sciglio giocherà da protagonista e magari altri ne arriveranno, no? Sì, beh, ovvio, anche per costruire una squadra bisogna partire dalle fondamenta, e le fondamenta non possono essere che il settore giovanile, che non possono essere che i giovani, su cui appunto bisogna lavorare sin dall'inizio. Proprio in questi giorni sono stato all'Ajax con il mio tecnico, questo mio tecnico è stato il mio tecnico di fiducia, è stato per una settimana al Barcellona, andremo al Bayern, insomma stiamo girando un po' quelli che riteniamo i settori giovanili di riferimento per capire cosa si può proporre qui da noi per continuare a crescere e migliorare. Sì, viaggio studio. Sì, assolutamente. Ho l'idea abbastanza chiara. Non ho dubbi, caro Phil. Senti, tornando all'altra sera, io mi aspettavo sinceramente però qualcosa in più dal Milan sul piano difensivo, non offensivo. Guarda, io credo che dal punto di vista difensivo non sia stata una partita giocata male, c'è stata l'attenzione, certo non quella che avevamo visto feroce a San Siro, feroce inteso come proprio livello di attenzione. Poi c'è da dire che Messi ha fatto due cose straordinarie, perché il tempo di esecuzione tra primo controllo e tiro in porta è stato veramente nell'ordine credo dei millesimi di secondo, e quindi voglio dire qualsiasi dispositivo difensivo difficilmente avrebbe potuto fermarlo. È chiaro che dispiace, perché forse si doveva riuscire magari a fare qualche ripartenza in più, a essere meno rinunciatari, ma ovviamente non è stata una scelta, si è stati un po' costretti da questo Barcellona che ha fatto il Barcellona, che ha fatto la partita con molta più intensità e molta più precisione anche nella trasmissione della palla rispetto a quanto aveva fatto a San Siro. Sì, Filippo, domani invece sorteggione a Nyon, secondo me ha ragione Buffon, fossi nella Juventus non vorrei mai incrociare il Real Madrid, ricordiamo che si sorteggia il tabellone dai quarti fino alla finale. Real Madrid è una squadra che credo nessuno vorrebbe incontrare, perché sappiamo Mourinho sa far giocare male le squadre avversarie, sa giocare sull'avversario, e forse potrebbe essere davvero tra tutti l'avversario più scomodo per la Juventus. Altre squadre mi sembra che invece appunto affrontino una partita con un'ottica diversa, con una mentalità diversa, con un'idea di calcio diverso. È ovvio che però anche incontrare il Barcellona non so quanto sia possa essere una buona idea. Infine, Filippo, la corsa al secondo posto adesso ricomincia, c'è chi dice beh il Milan adesso può concentrarsi su quello e conquistare l'obiettivo che il Milan vuole, l'Inter vediamo cosa succede stasera, vediamo cosa succede domenica con la Sampdoria, ma mi sembra tutto in alto mare. Il Napoli, c'è stato il messaggio pontificio, visto che siamo nei giorni di De Laurentiis, c'è anche la Fiorentina, mi sembra grosso modo che siano queste. Non metto la Lazio e non me la dimentico, che sta facendo una grande stagione, ma se va avanti in Europa dubito che possa correre fino alla fine. Sì, forse per la Lazio è difficile avere quella continuità, rimanere in Europa anche in campionato. Sarà importante avere continuità, come dicevo, perché comunque bisognerà lottare anche se su un solo fronte, però essere davvero concentrati, pronti già subito. Io parlo del Milan, ovviamente domenica è una partita delicata che viene dopo questa sconfitta, e i ragazzi dovranno essere bravi a farsi scivolare addosso un po' quelle che possono essere tossine anche dal punto di vista mentale, nervoso, che possono essere rimaste addosso quando si perde una partita così, quindi sarà fondamentale ripartire subito col piede giusto, ma insomma io sono convinto che i ragazzi, che la squadra, che mister Allegri e tutti insomma riusciranno a farcela. Grazie Filippo, buon lavoro. Grazie a te, un abbraccio. Un abbraccio, grazie a Capitan Filippo Galli, che pensate un po', Mimmo Juventino che tifo Milan ad Atene con Galli in difesa, ricorda e saluta via SMS. Ragazzi, aspetto voi, 800 24 00 24, appena visto inquadrata su Sky la tessera numero 88235N, che è quella del San Lorenzo de Almagro, club argentino intitolata questa tessera a Papa Francesco. Strade. Campo aperto, può andare Niang che è velocissimo, Niang in area di rigore, Niang, palo! Tutti convocati. Allora, domani sorteggione dei quarti di finale, ma quest'anno cambia a differenza di quanto detto prima, cambia perché non viene sorteggiato un intero tabellone ma soltanto i quarti di finale, poi le semifinali. Però c'è Domenico da Modena che fa un pronosticone, Allora, quarti di finale Juve-Malaga e Galatasaray-Paris Saint-Germain, poi Barcellona-Borussia e Real Bayern, semifinali Juventus-Paris Saint-Germain e Barcellona-Bayern, finale Juventus-Barcellona 3-1, gol di Matri, Pirlo, Messi e Vucinic. Immaginate un po', indovinate per chi tifa Domenico, eh? Per il Malaga, mi suggerisce il capitan Cantadori, non credo, difficile. 800 24 00 24 è il numero verde. Io, come sempre, per me come sempre massimo piacere parlare con voi. Leggo anche, ho letto anche un'intervista stamattina sul sito della Gazzetta dello Sport a Sinisa Mihajlovic, poi ne parliamo e sentiamo anche Stramaccioni. Antonio Pavia, buongiorno. Buongiorno gente. Dica. Io sono tifoso interista, ma vorrei partire dalla partita Milan-Barcellona che io ho guardato cercando di avere degli occhi senza imparziali. Imparziali, sì. E ci sono riuscito, devo dire. Ma una cosa che ho visto e non ho sentito commentare da nessuno in questi due giorni, la forza del Barcellona su 10 passaggi, sì, forse ne sbagliavano uno, cioè hanno una proprietà di palleggio, di tocco di palla. Beh, questo sì. Io non riscontro. Ma nel senso che io quando vedo l'Inter, purtroppo... non si è impietoso nel confronto, non, cioè, non no, esiste, ma nessun altro ha quella proprietà di palleggio al mondo. Ma è quello che fa la differenza, non è tanto la velocità a mio parere, perché la velocità ci sta, ma se su 10 palleggi ne fai 9 giusti e uno puoi sbagliarlo, e quando vedo giocare l'Inter è l'esatto contrario, allora forse dico che sì, è il problema. Il problema è dove li lasci palleggiare, cioè se li costringi a palleggiare, a girarti intorno, lontano dalla tua porta, è un conto, come ha dimostrato il Milan all'andata, come ha dimostrato anche di recente Mourinho con il Real Madrid, e credo dimostrerà ancora, spero dimostrerà ancora nella prosecuzione della Champions League, perché io un confronto Barcellona-Real, sinceramente ragazzi, lo vorrei vedere praticamente a tutti i costi. Domani sarò, insomma, farò il tifo, magari non nei quarti di finale, non lo so, magari in semifinale, chi lo sa. Immaginatevi una finale Barça-Real, cosa viene fuori. No, ovviamente speriamo che ci vadano altri colori, magari la Juventus, anche se, perché sognare non costa nulla, come dicevo l'altra volta, salvo forse il prezzo di un po' di delusione, come è successo per il Milan. Allora, intervista a Mihajlovic, il cui nome è stato nei giorni scorsi, anzi in queste ore, accostato a quello dell'Inter, perché per Stramaccioni il futuro incerto è, al di là della partita di questa sera con il Tottenham, che credo segnata almeno dal punto di vista della qualificazione, anche se l'Inter con Cassano prima punta, leggevo prima la formazione, è chiamata quantomeno a dare una risposta a tutto il male calcistico che ha fatto negli ultimi tempi. Ebbene, Mihajlovic, che CT della Serbia, che dice: non ho mai tradito un sogno a questo proposito e non sono ipocrita, per cui se mi chiedete se spero un giorno di allenare l'Inter, dico sì e lo ripeto mille volte, mi fa piacere che il mio nome venga accostato alla panchina nerazzurra. Poi dice però, da ex tifoso, vorrei che Stramaccioni facesse bene, odio i gufi, eccetera eccetera eccetera. Eros Padova, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Convocato. Convocatissimo, sempre. 800 24 00 24, siamo qui apposta. Allora, premetto una cosa, sono juventino dalla nascita e non gufo, quindi sportivo al 100%, perché amo che vadano avanti le squadre italiane, a differenza magari di qualche nostro ascoltatore che non è così. Però Eros, lei fa bene, io sono uguale, però come suora, non mi ricordo, come era suora, la suora di ieri che è intervenuto, non mi ricordo, però meravigliosa, anch'io non gufo, però io dico che i gufi ci stanno nel calcio. No, ma un gufeggio così, però ci stanno nel calcio, dai, non facciamo il permaloso. Ma sicuro, dica. Io volevo fare una considerazione da ex calciatore dilettantistico a buoni livelli, da allenatore di squadre giovanili. Volevo fare una considerazione, volevo sapere se c'era possibilità anche di un vostro parere. Sì. Io credo che Allegri, nella partita di andata, abbia fatto abbia indovinato la tattica perfetta per imbrigliare in casa del Milan quel tipo di gioco. Sì. Mentre, secondo me, a mio parere, al Camp Nou non era assolutamente necessario ripetere il miracolo di San Siro. Anzi, secondo me, doveva completamente cambiare tattica, perché sarebbe stato sarebbe bastato veramente soltanto un gol per chiudere la qualificazione. E pensare di tenere 95 minuti su un campo grande come il Camp Nou, con 90.000 persone che fanno il tifo, io credo sia stato un azzardo che ha pagato Allegri a caro prezzo. Io, se fossi stato allenatore, ma siamo 60 milioni di allenatori, ovviamente abbiamo 60 milioni di pareri diversi, io sarei andato là e mi sarei giocato il tutto per fare un gol, anche se avrei rischiato qualcosina. Però col senno di poi, insomma, Senno di poi è difficile, cioè, secondo me la partita perfetta con il Barcellona rimane quella dell'Inter di Mourinho, no? Tra l'altro in inferiorità numerica dopo un pugno di minuti, molto difficile, molto difficile. Però l'Inter, al di là del fatto che c'è da riconoscere che Allegri ha giocato senza una prima punta di ruolo per tutta la partita praticamente, quindi è stato molto svantaggiato, perché il solo Pazzini, purché io non sia un estimatore di Pazzini, però come ruolo, come prima punta, un giocatore che difende la palla, che fa salire la squadra, si è sentito assolutamente la mancanza. Sicuro. Però vai là, rischia il tutto per tutto, buttati in pressing, falli morire, 45 minuti magari fai un gol e chiudi la qualificazione. Io andare là a fare 90 minuti dentro l'area mia, sinceramente non mi sarei neanche sentito di chiederlo ai ragazzi, perché la fine, secondo me, sarebbe stata comunque segnata. No, ma tu hai ragione, ma infatti com'era segnata, però io continuo a pensare che l'unico modo per affrontare il Barcellona sia quello, cioè regalare loro la palla e tenerli lontani il più possibile da dove fanno più male, cioè dalla linea alle spalle del centrocampo. Esatto. Bisogna anche avere la forza e le gambe per andare lì a imporsi. La forza e le gambe è anche, secondo me, un pizzico di mentalità diversa da quella che purtroppo noi italiani, andando a giocare all'estero, io parlo da Juventus, che ha perso le famose finali, che ha perso le famose qualificazioni alle semifinali e alle finali, andando sempre a giocare fuori con questa mentalità. Infatti nella mia prenotazione avevo detto anche una speranza che la Juve, chiunque capiti, non faccia questo errore, ma vada a giocare a viso aperto sempre, contro chiunque, dappertutto, senza paura. Questo grazie davvero, commento senz'altro qualificato, questo in linea teorica va bene, poi alla fine bisogna portare a casa il risultato ed essere anche un po' italiani, perché non c'è niente di male in questo, come diceva ieri Novellino, noi quando ripartiamo siamo una meraviglia e non c'è niente di cui vergognarsi in questa mentalità che comunque ci ha portato spesso lontano. Allora, sentiamo un po' di Stramaccioni, che stasera gioca tra stasera e domenica con la Sampdoria si gioca anche il posto, probabilmente. Sentiamo cosa ha detto ieri. Dentro di me so che sarò giudicato per quello che faremo alla fine di queste 10 partite. Il presidente è arrabbiato, giustamente, con tutti, ma lo siamo anche noi. Cioè, non c'è in questo una differenza di pareri. Credo che il mio lavoro sarà giudicato a fine stagione, però questo tu mi hai chiesto una mia sensazione, poi magari mi caccia dopo la Sampdoria, però quelle sono decisioni sue. Magari mi caccia dopo la Sampdoria, dice Stramaccioni. Mihajlovic invece dice: la Juventus rivincerà lo scudetto, ma per essere all'altezza delle altre grandi d'Europa serve qualche altro top player. Poi Di Cassano: lo conosco bene, è un bravo ragazzo cui ogni tanto parte la brocca. Pensavo che il matrimonio e la paternità lo avessero cambiato. Di Balotelli, sempre Sinisa Mihajlovic: ma Mario è un bravo ragazzo, ha ragione Mancini, anche a 30-35 anni farà ancora parlare di sé per qualcosa, prendere o lasciare. Allora, Stramaccioni, in un altro frammento di dichiarazione a Mediaset. Andrea, come si sta in questo frullatore? Beh, sicuramente in questo momento ovviamente le pressioni sono molto alte, perché sei all'Inter e quindi quando le cose non vanno probabilmente si pagano doppio. No, io non dico meno protetta, dico che certe, diciamo, situazioni, a parità di situazioni, vengono mediaticamente giudicate in maniera differente. Ma di questo ormai sono sicuro, però fa parte del gioco. Probabilmente anche è il nostro valore che porta, il valore del club è il nostro valore che porta a queste, alle volte, differenze di giudizio. Caro Strama, allenare l'Inter è così, tu lo sai bene. 800240024, vi aspetto tutti dopo la borsa. Eh sì, io sono convocato domani. Tutti convocati. Tutti convocati sempre all'800240024. Sempre Mihajlovic. Chi è oggi il miglior giocatore italiano? Domanda, risposta, Totti, uno dei primi tre giocatori italiani di tutti i tempi, il 10 più grande di sempre, più di Baggio, Del Piero e del mio amico Mancini. Ma se a 37 anni Francesco è ancora il migliore di tutti, vuol dire che il calcio italiano si è fermato, dice Sinisa Mihajlovic. Roma e ci siamo. Ragazzi, sono due settimane che la meniamo con questa storia, ma oggi è il giorno. Dare soldi, vedere cammello, come disse un giorno il professor Lotito. Siamo allo sceicco di Roma. Sono lo sceicco Giordano, da dove cresce il petrolio. Sono lo sceicco Giordano, non vengo a Roma in cammello. Ma perché mi fanno tutte queste feste? Sei il figlio dello sceicco. No, si sono accorti che io sono napoletano. Sceicco napoletano. Amico mio, i meridionali all'estero si sono sempre piazzati. Dammi la Roma. A quanto pare lo sceicco Kaddoumi avrebbe anche offerto un caffè. Pensate un po'. Un latte macchiato, tiepido, senza schiuma e con poco caffè. Tiepido e non freddo. Poi mi chiedi le cose. Voglio la Roma. Allora, l'ha offerto, ma adesso attendo conferma. L'avrebbe offerto, uso ancora il condizionale, a Matteo Pinci, giornalista di Repubblica, che lo ha, attenzione, intervistato. È su Repubblica di ieri, vi ho anche parlato di questa intervista. Ciao Matteo. Ciao Carlo, buongiorno. Sì, confermi? L'ho offerto lui il caffè, confermo. Confermi, all'autogrill, giusto? Era una, diciamo, un'area di servizio, sì, tra nel tratto autostradale tra Roma e Orte, diciamo, sì, siamo un po' generici, però ci permetterai, sì, così questa licenza. Senti, io però sono due settimane che ho questa rubrichetta e penso di avere il diritto di sapere che impressione ti ha fatto lo sceicco. Allora, se parliamo della persona Adnan Adela Ref Kaddoumi, Alshtewi, cognome originario che poi è stato tagliato nei suoi documenti italiani, mi è sembrato una persona come molte altre, anche, ti dirò, anche una brava persona, nel senso non ho avuto l'impressione di essere al cospetto di un serial killer, no, ma questo non lo metto in dubbio, diciamo, questo, su questo mi sento di poter garantire. Sul resto, ossia sulle sue possibilità finanziarie, economico-finanziarie, mi riservo il diritto di attendere. Mi appello al quinto emendamento. Mi appello al quinto emendamento. Esattamente, no, nel senso che così a vederlo non sembra certo il classico sceicco che immaginiamo, ecco, non sembra Mansour, il proprietario del, sì, Manchester City, per dirne una, ecco, né ricorda, non lo so, Al-Khelaifi del Paris Saint-Germain, insomma. L'idea di essere un imprenditore che sicuramente non se la passa male, ma non si riesce a intuire di più. Sì. Poi affari italiani non lasciano pensare che possa avere a disposizione fondi illimitati o quasi, come c'era stato inizialmente riferito da fonti più o meno a lui vicine. Ecco. Sì, ma io guarda, la vedo più o meno come Unicredit, che non si fida più di tanto, anzi vado oltre, se oggi fa balenare quei 50 milioni di euro che dovrebbe garantire, quantomeno, sì, io vado in convento, te lo assicuro. 800240024 per chi viene con me. Guarda, non lo so, io devo dire, ero molto scettico fino a qualche ora fa. Sì. Gli ultimissimi sviluppi iniziano a far sorgere dei dubbi, che possono essere magari dovuti al fatto che questo signore non gestisca dei fondi propri, ma non so, sia così intermediario di qualcuno, il rappresentante di un gruppo di imprenditori o principi o non so, comunque di matrice, l'unica cosa su cui non ho dubbi è la matrice assolutamente medio orientale, che magari possano essere dei fondi anche rilevanti. Non ho dubbi sul fatto che questo signore abbia per lavoro avuto o magari abbia in questo momento rapporti con figure importanti nel mondo medio orientale, parlo ovviamente di figure riconducibili alle famiglie regnanti in Arabia Saudita e in Giordania. Detto questo, aritmeticamente non vuol dire che abbia a disposizione fondi illimitati, possibilità di versare 100 milioni, perché poi l'operazione, noi parliamo sempre di 50 milioni perché è la prima tranche, diciamo, quella immediata per sbloccare l'affare. Sì. Ma si tratta di un'operazione a tutti gli effetti da 100 milioni, 50 più altri per entrare e gli altri 50 per l'eventuale, anzi l'indispensabile ricapitalizzazione che serve ai conti della Roma per coprire quel debito. Esattamente, c'è un'esposizione di oltre 90 milioni con i crediti, insomma ci sono punti che segneranno probabilmente le prossime estate un ennesimo rosso di bilancio importante. Si parla, facendo proprio una bieca proiezione dei sei mesi rispetto all'ultima semestrale appena chiusa, si parla di 50 milioni più o meno di eventuale perdita dopo i 53, se non sbaglio, dell'ultimo esercizio. Certo. Insomma, parliamo di cifre rilevanti, per cui la ricapitalizzazione a prescindere ci sarà. Credo che sia necessaria un'entità così versare liquidi superiori alle aspettative, e mi sembra indispensabile in questo senso la figura di un nuovo partner oltre a Pallotta. Sì. Però devo dire che questa operazione, nonostante la trasparenza quasi così ingenua di Gaddumi, perché insomma di questo signore abbiamo saputo più o meno tutto, i nomi dei figli, le abitazioni perugine, quelle in Giordania, presunto. Quello che invece mi lascia più dubbi è la gestione americana, ossia della proprietà attuale della Roma, della questione, perché James Pallotta, di fatto l'uomo più in vista, ma sicuramente anche l'uomo più rilevante della cordata americana, se non l'unico forse veramente attivo in questo momento, non è uno sprovveduto, è un signore abituato a far circolare milioni e milioni di euro. Ma certo, ma può essere, come dici tu, che magari questo Kaddumi sia il di benedetto della situazione, anche se io qualche dubbio ce l'ho e me lo tengo, ecco. Anch'io. Mentre mi fa notare Andrea che ieri in autogrill il caffè era gratis. E non è una battuta, scrive Andrea, non so, via SMS, non sono passato dall'autogrill. Erano passato già qualche giorno, quel giorno l'ha pagato. Vabbè, abbiamo lo scontrino, sai che lo avevo fino a qualche giorno fa. No, ma mi domando perché la Roma sia tutto così maledettamente difficile. Accordo con la Nike da 50 milioni di euro per 10 anni, sempre questa cifra di 50 che rimbalza, però l'anno prossimo... maglietta no logo, quindi senza il famoso baffo, perché non c'è tempo per prepararlo, è così? Esattamente, unbrand, come dicono unbrand. Quelli bravi che conoscono le case fornitori, i produttori, diciamo. Sì, è così, la produrrà l'ASICS, ma non comparirà sulla maglia. La Roma studierà una serie di iniziative per occupare, diciamo, lo spazio del logo e per rendere sostanzialmente, credo, più o meno oggetti da collezione una maglia che altrimenti sarebbe semplicemente una maglia anonima, detto brutalmente, perché di questo si tratta. Non ricordo nel calcio professionistico ad alti livelli, escluso il Bilbao per una decina d'anni, ma lì c'è una storia differente, evoluta soprattutto, una che rinuncia ad avere una sponsorizzazione tecnica, però una scelta. Evidentemente era molto vantaggioso interrompere il rapporto con la K, anche se seguirà uno strascico giudiziario, credo inevitabile. Grazie Matteo! Grazie. Salutaci a voi. Lo sceicco Matteo Pinci di Repubblica, che dunque il famoso sceicco lo ha intervistato. Alessandro da Pordenone, andiamo subito con gli ascoltatori. 800 24 00 24. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, un caro saluto a tutti. Niente, io volevo portare un attimo la mia idea sulla partita che c'è stata tra Barcellona e Milan. Sì. Io sono tifoso milanista da sempre, però bisogna essere onesti a dire che Guardiola e il Barcellona hanno veramente portato una rivoluzione nel mondo del calcio. Beh, certo, questo sì. Secondo me assolutamente superiore anche a quella che portò Sacchi con il Milan degli olandesi. A me quello che ha stupito nel vedere il Barcellona, che mi stupisce ogni volta che li vedo giocare, è una cosa è proprio diversa, velocità di reazione che hanno tutti i giocatori, quindi... Sì, anche se all'ascoltatore di prima che mi diceva fanno viaggiare la palla ma non corrono tanto, ecco, vorrei invitarvi a guardare la corsa che si è fatto Jordi Alba al minuto numero 94, 80 metri di scatto per andare a segnare quel gol. Andatevela a vedere su YouTube, la trovate con tutta la traiettoria della corsa e la velocità di corsa. Va bene che è giovane, va bene che ha le gambe, però era al minuto 94. Bernardo Teramo, buongiorno, io ti do del tu, Carlo. Ma certo, è un piacere. è tanto che provo a parlarti, per cui innanzitutto vorrei togliermi un sassolino dalla scarpa. Sì, basta che non me lo tiri. Essendo milanista praticante, quando posso, praticante milanista praticante. Mi è piaciuto. Dimmi. Volevo innanzitutto dissociarmi da quei milanisti che hanno fatto dei bruttissimi cori verso Milito, in quanto io sportivo apprezzo e ammiro da morire. È un giocatore che avrei tanto voluto al Milan. Sì, anch'io, ma a prescindere dalla maglia mi dissocio comunque. Non importa niente la maglia, perché comunque Milito, ma al di là del fatto che sia un gran giocatore, insomma, fa ricorrere nei confronti di un infortunato è quanto di più schifoso mi possa venire in mente, ecco. Per me non sono milanisti, insomma, ecco. Ma no, ma saranno anche milanisti, però a prescindere dall'atteggiamento, cioè fare cori nei confronti di uno che sarà un avversario mai infortunato, ma beh, cioè sta. Allora, dimmi veloce. Dimmi. Quello che volevo dirti è purtroppo noi milanisti siamo abituati ad essere in Europa, diciamo che il nostro pane, no? Adesso vedere il Milan prendere 4 gol così dopo aver vinto la partita di andata, sinceramente, adesso senza far polemiche, però credo che qualche cosa di suo ce l'abbia messo il nostro Allegri, Ma cosa ne pensi? Io lo dico da due giorni, cioè l'ho detto anche prima a Filippo Galli, mi aspettavo e continuo a pensarla così, qualcosa di più dal Milan sul piano difensivo. Poi possiamo parlare anche di giocatori, però sono tutti discorsi che costano di poi, sono un po' stucchevoli. Ed Esciglio, che io avrei visto bene in questa partita, magari va male uguale, però almeno gioca una grande partita e fa esperienza alla corsa e all'atletismo di montare una partita così, non avrei rinunciato, però insomma sono discorsi col senno di poi. Il fatto è che dal Milan mi sarei aspettato qualcosa di più, appunto sul piano della tenuta difensiva, ma come squadra, complessivamente parlando, fin dal primo minuto. Strade, poi torniamo, 800 24 00 24. Dai, vai, non è solo calcio in questo momento, però è Marina. Pronto, Marina, dove sei? Pronto, buongiorno a voi, io sono di Albenga. Visto che non mi convoca Carlo Genta, ho detto proprio da voi. Tutti convocati. Dunque, saluto Giacomo Bagnasco e tra poco parleremo anche dell'Italia del rugby che va incontro all'ultima partita delle Sei Nazioni contro Irlanda. Ciao Giacomo. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Però voglio farvi sentire anche un'altra cosa che mi fa divertire da morire. Allora, Lupatelli, Cristiano Lupatelli, ormai secondo portiere della Fiorentina, qui è stato rinnovato il contratto, conferenza stampa per il rinnovo del contratto. Io voglio convocarlo ufficialmente, Cristiano Lupatelli, lo voglio ospite di questa trasmissione. E dobbiamo avere, se qualcuno della Fiorentina che ci sente, fateci chiamare, se no chiamiamo noi, per rompiamo le scatole noi, non c'è problema, però i Lupatelli lo voglio, sentiamolo. C'è una grossa società del nord Europa che mi sta pressando. Porca miseria. È vero, una grossa società, l'IKEA. Comunque. Numero uno assoluto, non solo di maglia, non mi ricordo che numero abbia, però numero uno assoluto, grossa società del nord Europa che mi sta pressando, se non mi rinnovavano il contratto io vado. Francesco Latina, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Intanto complimenti. Io volevo dire una cosa, un aspetto forse che, sentendo sempre la vostra trasmissione, forse è un po' trascurata questa cosa. Io sono un tifoso dell'Inter, seguo tantissimo anche altre partite. Adesso c'è un aspetto molto importante, che mentre la parte tattica, oggi l'allenatore è bocce ferme, è facile fare il 3-4-3, il 3-5-2 o altro, quindi a bocce ferme. Ma quello che oggi che fa la differenza è la velocità del far girare il pallone. Questo il Barcellona, infatti, Barcellona. Ha da maestri su questa cosa. Ora mi chiedo, l'Inter, per la scelta dei calciatori che sta facendo, e ancora una volta vedo che sceglie sempre sulla zona sudamericana, dove è vero che il pallone gira, ma hanno dei ritmi abbastanza lenti, che cosa che noto tanto. Sì. Ma non è il caso che i calciatori, che forse che si Inter gli scelga un pochettino più la parte più europea, e italiani, e la Juve ce lo insegna. La Juve ce lo insegna, anche il Barcellona, perché mi sembra che Messi arrivi da quelle parti lì, insomma, da quelle parti da cui arriva anche il nuovo pontefice. Non è una questione di provenienza dei giocatori quanto di qualità dei giocatori, mi sembra che sia questa all'Inter. che faccia difetto. Poi la provenienza, sulla provenienza, vabbè, possiamo discutere. Se li prendi buoni, che vengano dall'Argentina, dal nord Europa, insomma, cambia poco. Secondo me è davvero poca cosa dal punto di vista qualitativo questa Inter. Giacomo Bagnasco, vuoi sentire cosa ci ha detto Favaro l'altro giorno? È naturale. Sentiamolo. L'Irlanda non ci deve temere, perché se ci teme arriva il 100% ed è ancora più dura. L'Irlanda deve dire: cazzo, l'Italia la dobbiamo ammazzare, questa è la speranza nostra. A prescindere da tutto, ma sono sicuro che l'Irlanda ci teme. Questa senazione abbiamo lasciato dei segnali molto positivi. Abbiamo ritrovato una partita contro la Scozia, contro la Francia. Sì, abbiamo perso male contro la Scozia, ma comunque esprimendo sempre un buon rugby. Quindi penso che non sarà per nessuna delle nazionali facile batterci. Speriamo, Giacomo. Intanto mi pare che Castro Giovanni, che prima ho visto in un'immagine rasato, si è tagliato i capelli. E si è tagliato i capelli, ma gli sarà successo come a Sansone, perché in effetti non ha perso le forze, ma è infortunato, sì, e quindi non sarà in campo. Chi gioca? Gioca Cittadini, che in realtà lo ha rimpiazzato benissimo dalla mezz'ora del primo tempo a domenica in Inghilterra, quando abbiamo sfiorato almeno il pareggio con gli inglesi. In prima linea rientra dal primo minuto lo Cicero, che giocherà la 103esima e molto probabilmente ultima partita in azzurro, perché penso che sia vicino ad annunciare il ritiro, al posto di De Marchi. Questo di Lo Cicero e De Marchi è l'unico cambio tecnico, mentre abbiamo detto Castro Giovanni Fortunato sostituito da Cittadini e Favaro in campo al posto di Barbieri. Un bel personaggio Favaro, lo avrai sentito, lo avrai notato. Si è distinto una volta per una frase che a me è piaciuta moltissimo, quando gli hanno chiesto se da atleta professionista ed essendo un giovane è chiamato a fare troppi sacrifici, e lui ha detto che ha un papà che fa il muratore, si alza alle 6 del mattino tutti i giorni e che i sacrifici gli sembrano quelli. Sì, e non ha sbagliato, gran personaggio, ma anche un ragazzo con la cabeza, come dicono quelli che vengono dalla Spagna o dall'Argentina. Indubbiamente, anche perché rispetto ai primissimi anni è migliorato anche dal punto di vista della disciplina adesso. Ma l'Irlanda, come diceva prima Favaro, secondo te viene a giocare quale tipo di partita? E guarda, purtroppo secondo me viene a giocare la partita al 100%. Primo, perché ci sono due giocatori, due centri a questo punto titolari, O'Driscoll e Marshall, che erano in dubbio, ma ci sono tutti e due. Secondo, perché O'Driscoll a sua volta probabilmente gioca l'ultima partita con la sua nazionale, è il recordman quanto a mete segnate nelle Sei Nazioni in assoluto, è un giocatore di straordinaria importanza, gli vogliono tutti un bene tale che secondo me giocheranno anche per lui. In più, nei tre quarti rientrano due giocatori molto importanti, in particolare il mediano di apertura Sexton, di cui l'Irlanda ha sentito la mancanza, e poi l'ala Gilroy. Allora, poi O'Driscoll è un'icona del rugby mondiale, sì. quindi sarà anche un tributo doveroso. Indubbiamente, sarà giusto fargli giusto festa, fargli in ogni applauso. Caso abbiamo visto durante Irlanda-Francia le ultime battute di gioco di questa partita drammatica finita 13 pari, con la moglie di O'Driscoll che veniva continuamente inquadrata per l'orrore delle mamme italiane, perché in questa giornata di pioggia e di vento terribile aveva con sé nel suo cappottino la bambina di un mese. Pensa. Poi ci domandiamo perché loro sono più avanti. Vabbè, quanto meno dal punto di vista rugbistico. Ascolta, io se posso ti vorrei dire ancora due cose. Una, guarda, abbiamo un minuto. Una è che abbiamo la diretta testuale sul sito del Sole 24 Ore anche sabato, e l'altra, visto che Galles-Inghilterra è comunque la partita decisiva per il Sei Nazioni, con il Galles che un po' a sorpresa si è tirato su e l'Inghilterra un po' in difficoltà, sì. Dopo che non ha vinto troppo largamente con l'Italia, ti leggerei la frase di Phil Bennett, capitano gallese, detta nel 1977 prima di un Galles-Inghilterra, per far capire che ambiente troveranno gli inglesi. Guardate cosa hanno fatto al Galles questi bastardi. Hanno preso il nostro carbone, la nostra acqua, il nostro acciaio, comprano le nostre case per passarci un weekend all'anno. Cosa ci hanno dato in cambio? Assolutamente nulla. Siamo stati sfruttati, umiliati, controllati e puniti dagli inglesi. E noi oggi giochiamo contro di loro. E indovina per chi faccio il tifo. Grazie mille, Giacomo. Grazie a voi. Grazie a Giacomo Bagnasco, a Franco Piantarini, autore di questo programma, Capitan Fabio Cantadore in regia. Ci sentiamo domani qui alle 2. Ciao a tutti. Tutti convocati.